sé yo, viene el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina vi parlerò del cyber-obamismo. Non confondete le parole, perché l'assonanza potrebbe far somigliare moltissimo a una delle dei più terribili anatemi che viene dato ai frequentatori della rete. No, parliamo di obamismo. Il presidente degli Stati Uniti, ve lo semplifico al massimo, visto che su questo argomento è stato parlato con certezza di documentazione tantissimo. Radio 24 ospita un programma che da mesi parla di Obama, quindi non vorrò aggiungere nulla a quanto già detto, però riassumendo in termini molto rozzi, sommari ma efficaci, il luogo comune più praticato è: il presidente degli Stati Uniti è stato eletto in questa sua raffigurazione, così democratico, così carino, così sveglio, così avanti, così oltre ogni schema, con il BlackBerry sempre in mano, bello, muscoloso. Perché? Perché ha attivato il popolo della rete. Grazie a internet, a YouTube, al web 2.0 è diventato presidente degli Stati Uniti. Non vogliamo contraddire questa tesi, però vogliamo riflettere quanto questo poi avrà una ricaduta in realtà sull'osservazione e sui metodi di interfaccia che ha anche in Italia l'apparato dell'economia, del potere, della politica, nei confronti di un fenomeno di cui sembra che ci si accorga soltanto quando ci sono letture giornalistiche e mediatiche così efficaci, così forti, così sintetizzabili in pochi termini. Insomma, l'umanità si sta muovendo efficacemente attraverso la rete. La rete è un grande strumento di democrazia, la rete è un grande strumento di possibilità di esprimere l'opinione. La rete riesce addirittura a far eleggere il presidente degli Stati Uniti. Parole grossissime. È vero, non è vero? È una semplificazione esagerata? È semplicemente una parola di passo che fa piacere alla stampa più attenta a riverberare quelli che sono i luoghi comuni, o c'è qualcosa di vero? E in Italia cosa accade? Noi osserviamo sempre con grande attenzione il mutare della nostra società anche attraverso alcune raffigurazioni non sempre così evidenti, e su questo ci darete senz'altro, almeno su questo, soddisfazione, che riusciamo a osservare alcuni fenomeni con un piccolo anticipo. Da un anno e mezzo circa noi ci muoviamo prendendo una parte del pubblico che sembrava nascosta, sembrava reietta, sembrava psicologicamente poco dotata o problematica, che sono quelli che si muovono su Facebook. Abbiamo alimentato questo mondo, questa curiosità, questa esistenza, quando ancora non era così uscito in superficie. Oggi si parla soltanto di Facebook, sembra che sia l'accessorio informatico indispensabile ad ogni dattilografa, ad ogni parrucchiera, ad ogni ragioniere, per poter vivere serenamente la propria giornata professionale. Quindi è una realtà. Quindi in questo momento già fibrillante il pubblico degli ascoltatori, non tanto che mi ascolta mentre sta facendo un'altra cosa, mentre sta intervenendo alla mia domanda sul cyber-obanismo. Beh, noi vogliamo capire oggi cosa succederà in Italia. Si stanno già preparando i politici, coloro che hanno in mano l'economia, coloro che hanno intenzione e interesse nel cogliere in anticipo ogni elemento e ogni novità nell'opinione pubblica? Beh, cominciamo a osservare innanzitutto quella che è l'altra faccia della luna rispetto alla nostra realtà. La notte in cui il video fu messo in rete non lo sapevo nemmeno. Così la mattina dopo mi trovai a chiedermi perché il mio telefono squilla in continuazione. Sono stato intervistato dai più importanti network nazionali. Da quel giorno in poi si è verificato un effetto domino. In altri giorni non facciamo altro che chattare online. Obama Girl. Il video in classifica nella top 10 dell'anno. La cosa più gratificante è che i video sono diventati veramente parte della discussione politica. È stupendo come un video messo in rete un giorno venga visto da milioni di persone il giorno dopo. Penso che qualsiasi cosa accada, la cosa principale è che il video su Obama e tutto ciò che facciamo mantenga la sua importanza non solo in politica, ma nella storia della diffusione in rete. Questo è quello di cui si è molto sentito parlare, tanto che già su Facebook mi scrive Oscar: scusate la schiettezza, ma l'obamismo e il cyber-obamismo mi hanno veramente sfrantegato le palle. Non so, non se ne può più. L'altra sera ho assistito a una discussione di mezz'ora su come era vestita la moglie durante la cerimonia, sul fatto che il vestito giallo limone non le rendeva giustizia, le stringeva troppo le spalle. Questa è la lettura ipermediatica di un fenomeno che sembra appartenere molto al mondo della rete, ma la lettura ipomediatica di un fenomeno che nulla a che fare col mondo della rete è il tentativo più estremo che è stato fatto nel nostro paese di cercare in anticipo, in questo c'era stata una sorta di tentativo profetico, di anticipare questa sorta di liaison così stretta tra politica e mondo della rete. Il tentativo, che risale a un paio più o meno di anni fa, si chiamava Portale Italia, doveva essere un grande portale che riassumeva e mostrava tutto il paese, che allora fu così presentato attraverso una mirabolante produzione di filmato web dall'allora vicepresidente del Consiglio. Please visit the website, but please visit Italy. We're the best country in the world in terms of culture. Nonostante la buona volontà di Francesco Rutelli, del Portale Italia non se ne sente più parlare. Ci fu una spesa vergognosa di fantamiliardi. Era un prodottino che sembrava fatto almeno una quindicina di anni fa in una web agency delle prime, mi sono rutellizzato anch'io in questo momento, delle prime gloriose costruttrici di siti web. Non se ne parla più, però si parla ancora, e questi sono gli imprescindibili e imprevedibili effetti della rete, che dovrebbero forse essere studiati con più attenzione da chi la rete vuole usarla anche speculando sul traffico di esseri umani che l'attraversa. Beh, del filmatino di Rutelli che presentava il Portale Italia invece non è scomparso, anzi è nata una meravigliosa clonazione. Ancora se ne parla, ancora riesce a produrre emuli. Please. Au, visitate il website, ma per favore visitate Italia. Siamo i migliori al mondo. La cultura, landscape, i paesaggi, art, l'arte, history, la storia e città. Poi è passato un po' di tempo, poi è venuto il ministro Maria Stella Gelmini, poi è venuta l'onda, di cui non si sente più parlare, ma questo è il periodo di settimane bianche, è logico che gli studenti non siano affaccendati ad andare a occupare le piazze, e il ministro Gelmini, fortemente contestato dall'onda giovanile che anche lì passava le sue parole d'ordine attraverso la rete, il popolo dei blog, il popolo degli SMS, il popolo del web 2.0, beh, anche lei fece la sua rispostina, fece il suo filmatino su YouTube in cui parlava agli studenti. Ho deciso di aprire un canale su YouTube perché intendo confrontarmi con voi sulla scuola e sull'università. Voglio accogliere idee, progetti, proposte, anche critiche. Vorrei innanzitutto ringraziare coloro... La ministra formalissima, vestita come vestita quando è in televisione, che parla come parla quando è in televisione, davanti a una telecamera, che è una telecamera di come sono fatte telecamera e televisione, mette su YouTube il suo filmato. C'è una grande ricaduta sugli organi di stampa, tutti i giornali ne parlano come una clamorosa novità, la politica si apre al web 2.0, anche se in realtà non è effettivamente così. Viene presa una rappresentazione dell'umanità, di un messaggio da un mezzo molto vecchio come quello della televisione, viene appiccicato dentro la rete. Però i giornali ne parlano, tutti ci vanno, e il video della Gelmini ha fatto fanta contatti, mi sembra 369.000 contatti su YouTube. Però se uno apre la pagina YouTube e cerca Maria Stella Gelmini, questo trova come prima visibilità. Io non nego che ci possa essere chi non è d'accordo con la mia riforma. Ah, ecco. Qualche disfattista di un liceo di Forlì e un paio di studenti della facoltà di lettere di Oristano. Oristano. Ma poco più. E basta, tutto qui. Sì. Parliamo un po' di scuola. Volentieri. Sei contento? Sì. Allora, la Maria Stara anche taglia nella scuola, maestro unico. L'attenzione della rete in realtà è per la Maria Stella Gelmini mediatizzata attraverso alcune letture satiriche, Caterina Guzzanti, Luciana Litizzetto. Quindi chi va a cercare Gelmini in rete non trova tanto il video ufficiale, pur visto tanto, di lei che si rivolge agli studenti, ma trova le comiche che ironizzano su di lei. Comunque sia, è visibile. Vedremo se questo poi è efficace, funziona, serve, risponde alle intenzioni di chi si è affacciato a questo mondo misterioso, terrificante, spaventoso e ipermoderno della rete. Altro tentativo, e poi sentiremo i nostri ospiti, il ministro Brunetta si affaccia su Facebook. Grande novità, filmatino del ministro Brunetta, devo dire il primo veramente brutto, fatto con una webcam da 3,50 euro, lui tagliatissimo, si vede esattamente dal collo in su, con un'inquadratura che prende lo stipite di una porta, sembra fatto, non so, in una sorta di spogliatoio di palestra, non si capisce bene. Comunque, il tentativo è degno della del massimo rispetto. Amici di Facebook, buongiorno. So che siete in tanti, questa è la prima volta che mi rivolgo a voi. Grazie intanto di esserci. Io finora non ho fatto niente per colloquiare con voi. Da adesso, se vorrete, potremo parlare un po' insieme. Vi racconterò un po' le cose che faccio e magari, se voi mi date qualche suggerimento, qualche reazione, lavorerò anche meglio. Questo l'ho lasciato nella sua interezza per poi giudicare chi ci ascolta. 800 24 0024. Quanto siamo vicini al modello Obama? Quanta strada dobbiamo fare per arrivare al modello Obama? Ci si arriva attraverso queste modalità? Sono modalità diverse. So chi mi ascolta in questo momento è molto attivo in rete, ogni giorno allaccia, tiene calde le proprie relazioni, le proprie conoscenze, la propria capacità e interesse di mettersi in gioco con tante persone. Diciamo, questo è il tentativo del ministro Brunetta di apertura su Facebook, ma se andiamo sempre su YouTube e cerchiamo Brunetta, vediamo che questo video ha un 6.000 contatti, ha avuto anche, ci sono mille circostanze, sono dati in assoluta mancanza di scientificità, perché poi il video è preso da Facebook, quindi passa attraverso altri meccanismi. Comunque, il Brunetta più visto, 47.000 contatti, è Brunetta intervistato da Lionel Khan che parla della pasta e fagioli. Lei è un maestro della pasta e fagioli, no? Cioè lei fa benissimo la pasta e fagioli. Come si fa la pasta e fagioli? Soffritto, cipolla, sedano, carota, prezzemolo, un po' d'aglio per chi lo vuole. Borlotti sera prima a mollo, pomodoro. E se vogliamo proprio essere, olio ovviamente nel soffritto, poi si aggiunge pepe, sale, si controlla, la patata ovviamente si passa, i mal tagliati, se poi uno vuole essere un po' ricco, mi viene la parola, un culetto di prosciutto cotto. Quindi probabilmente attira più la descrizione della pasta dei fagioli, il culetto di prosciutto cotto, che è un sincero intento di aprirsi al popolo della rete. Ma cos'è il popolo della rete? Da chi è fatto il popolo della rete? Esiste un popolo della rete? Esiste in realtà questa trasversalità concreta e coerente di persone che attraverso la rete accrescono la loro capacità, la loro sensibilità? 800 24 0024, e cominciamo a far parlare le persone che più di me hanno strumenti per affrontare questo argomento. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Allora, Andrea Rossetti, professore di filosofia e informatica giuridica all'Università Milano Bicocca, con un gruppo informale di studio sta già affrontando questo problema, perché Andrea, mi sembra che ci sia già una richiesta diffusa di fare come Obama da parte della nostra classe politica. Sì, sì, in realtà il nostro gruppo si è proprio costituito perché alcuni di noi erano stati contattati da politici locali e non solo, che chiedevano di seguire il modello Obama, questo letteralmente il giorno dopo l'elezione di Obama. E quindi noi, non tanto per dare ausilio a queste persone perché non è il nostro mestiere, ma incuriositi a questa richiesta, ci siamo un po' messi a studiare qualsiasi situazione qui in Italia, non tanto dei politici, quelli verranno fuori con strategie comunicative più avanti, probabilmente sotto le prossime elezioni. Ci siamo interessati per vedere effettivamente quanto sia usata la rete in Italia per parlare di politica, e abbiamo iniziato ad analizzare i blog. Allora fermiamoci un attimo, Andrea, scusa, presento l'altro ospite e poi entriamo perché abbiamo tutta la trasmissione, poi vedremo la tua analisi. L'importante è che tu mi confermi che all'indomani delle elezioni di Obama si sono svegliati tutti in Italia e hanno detto, beh, anche noi in internet, perché no, dobbiamo averlo, come comprarsi il SUV, come la seconda casa al mare, come il vestito di buon taglio e come le vacanze esotiche. Luigi Crespi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Spin doctor, sondaggista, clandestino web sulla rete, grande conoscitore delle sensibilità e dei desideri dei politici, tanto tu hai inventato il famoso contratto per gli italiani. Grande momento mediatico, ma appartiene al passato. È molto passato. Ecco, tu cosa stai osservando di questa voglia di Obama della politica italiana? Ma sicuramente Obama ha aperto uno strumento, insomma, l'avvento... In Italia non c'è un David Ross, per intenderci. L'attenzione che ha creato Obama è quella dello strumento di Facebook, perché poi io credo che nel nostro paese i nostri politici abbiano maturato un'attenzione più globale su internet già da un po' di tempo, sì, perlomeno rispetto agli altri paesi europei. Hai sentito l'inizio della trasmissione, non è che i risultati siano poi di quelli... Beh, io infatti ho parlato di attenzione, nel senso che l'attenzione rispetto a internet in Italia è superiore da parte dei politici, l'interesse prima per i blog, poi per i siti di informazione. Adesso molta attenzione su Facebook grazie a Obama, ma l'idea che internet sia uno strumento di costruzione del consenso era già presente nei politici, perlomeno questa è la mia esperienza per la domanda che ricevevo. Il tema qual è, e te lo anticipo, è che internet favorisce e costruisce un rapporto bi-relazionale e fino adesso, diciamo, i politici italiani hanno preferito una presenza su quasi sempre, poi ci sono delle differenze, dei tentativi differenti, una comunicazione di tipo unilaterale, per cui perdendo grandissimo potenziale che invece la rete dà e che offre come possibilità. Ma qual è la paura di sbruciacchiarsi un po' le chiappe nel contatto diretto con gli esseri umani? No, costa fatica. Ah, ecco, non hanno tempo. È una fatica enorme gestire i rapporti, sia quelli personali di persona che anche quelli in rete. Lo so bene, io per fare questo programma gestisco 5.000 persone, non sono tantissime, però... Però costa fatica. Costa fatica, bisogna stare varie ore a disposizione del mondo, quello esatto, è vero. Esatto, esatto. E quindi delegano probabilmente ai loro uomini di comunicazione di fare questo, ma si accorge questo che... Quando lo fanno l'evidenza è assoluta, ma addirittura generalmente costruiscono, diciamo, dei modelli di presenza su internet che non prevede la bilateralità della relazione. E io mi ricordo che su Facebook uno dei primi è stato Veltroni, uscì su Repubblica la notizia che si era aperto un profilo in Facebook, raggiunse in un giorno 5.000 contatti, che è il top, ma non fanno altro che rincollare lì i suoi interventi ufficiali, la gente dice che bello Walter, sono onorato che ha accettato la mia amicizia, però finisce lì. Però ecco, voglio dirti, rispetto, non so, alla Francia, rispetto all'Inghilterra, rispetto alla Germania, rispetto alla Spagna, i nostri politici hanno un'attenzione e una comprensione dell'utilità dello strumento che è sicuramente più elevata. Non a caso, se tu dai un'occhiata alla classifica di Facebook, dopo i politici americani, ovviamente, dove sappiamo che Obama ha raggiunto i 4 milioni di fans proprio in questo periodo, tu vedi una sfilza di politici italiani che sono nei primi 20, nei primi 50. Questo certamente non è un dato scientifico, ma è indicativo di una presenza che non è ancora però interattiva. Sì, però se è molto difficile in quello, vorrei sentire Rossetti in questo. Se noi digitiamo in un motore ricerca il nome di un politico e ci dà 10.000 occorrenze, possiamo essere contenti per lui. Poi se andiamo a vedere nel particolare, è la Guzzanti che fa la satira, forse cambia un po' l'ordine di attenzione. Andrea. Sì, la prima cosa di cui noi ci siamo resi conto è che in realtà di queste cose non è possibile un'analisi quantitativa fatta solamente con i numeri. Infatti appunto costerà molta fatica, il lavoro che stiamo facendo costa molto fatica, perché noi almeno fino adesso non abbiamo trovato modo di automatizzarlo, di renderlo automatico, di creare un algoritmo in maniera da esplorare in maniera automatica queste cose. E così appunto come mantenere i rapporti con le persone, come diceva Crespo, è una fatica, così in realtà sarà una fatica analizzare queste realtà, perché sono ancora molto sfuggenti, non abbiamo ancora in qualche modo categorie condivise per analizzare queste cose. Anche qui insomma c'era il sito della mafia dedicato a alcuni bot della mafia di cui parlano tutti con migliaia di iscritti. Beh, se poi uno va a vedere il dato numerico è davvero ingannevole, perché molti di quelli che sono iscritti in realtà contestano l'esistenza di questi gruppi o di queste pagine su Facebook. Sì, poi c'è la lettura sempre sommaria dei mezzi di comunicazione tradizionali, ciò che accade in rete, sono sempre parole di passo. Facciamo una pagina sui profili dei mafiosi e tutti a stracciarsi le vesti. Poi, giustamente, la maggior parte sono persone come noi che dicono: ma non fate i cretini, che tanto tutti sanno chi siete. Esatto. Esattamente, esattamente. Questo, insomma, quindi il dato numerico è veramente ingannevole in questo, non dà neanche un'idea, ecco, mentre in alcuni contesti, insomma, per lo share televisivo, queste cose, il numero può dare almeno un'idea approssimativa di qualche cosa, qui no, qui il numero può veramente ingannare. Bene, 800 24 00 24, lasciamo la linea all'informazione della borsa e la domanda è questa: quanto secondo voi percepite la presenza reale, costante e aperta alla discussione di chi gestisce la politica, di chi gestisce l'economia, di chi gestisce il potere, e quanto voi, stando in rete, avete l'idea che questi due mondi riusciranno prima o poi a entrare in collisione proficua e dialettica, almeno in Italia. 800 24 00 24, ripeto il numero, mi sembra ci sia un po' di perplessità da parte del pubblico, sempre così veloce, attento ad ogni nostra sollecitazione su questo argomento. O non ci siamo spiegati male, non abbiamo spiegato bene i termini del problema, o evidentemente c'è una perplessità profonda nel cercare di considerare un possibile approccio alla comunicazione attraverso le reti, attraverso i mezzi più legati alla contemporaneità, da parte di una classe politica molto presente sicuramente attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali. Silvia, forse tramite Facebook, dove invece sono molto attivi e partecipano al programma, dice: la sua idea, i politici di casa nostra sembrano tutti quanti impacciati e timorosi nell'utilizzo della comunicazione sul web, quasi che si sentano costretti a farlo perché lo fanno tutti. Al momento non li vedo molto efficaci, non so se sia solo un problema solo anagrafico. Andrea Rossetti, professore di filosofia e informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca, cosa ti sembra rispetto a questa domanda di Silvia? Dal tuo osservatorio, abbiamo detto, un gruppo informale di persone che sta preparandosi alla grande richiesta, ci sarà da parte di amministrazioni pubbliche e di politici, di vedere, di riuscire a fare quello che ha fatto Obama. Ma come hai detto tu prima, i politici italiani, per quello che siamo riusciti a vedere noi fino adesso, hanno un uso strumentale di queste nuove tecnologie, nel senso che spesso le usano unicamente per finire poi sui media mainstream. Insomma, ricorderanno, credo tutti, no, l'uso che fecero di Second Life molti politici. Antonio Di Pietro, per esempio, creò un uso Second Life che poi credo abitò pochissimo, però ne ottenne un ritorno sui giornali e in televisione grandissimo, perché per un po' di tempo si parlò appunto del fatto che poi Di Pietro era sceso in Second Life, anche se poi lì non fece nessuna attività politica reale, tranne credo un paio di conferenze stampa. Sì, anche un posto dove al massimo ci potevano stare 80 persone, esatto, alla fine non valeva molto la pena. Esattamente. Faccia prima scendere un attimo nel cortile di casa sua e attaccarsi ai citofoni, se vogliamo. Però sì, dal punto di vista della comunicazione ha funzionato. Aveva funzionato moltissimo. Ecco, l'impressione che noi abbiamo, tranne rare eccezioni, l'impressione che abbiamo è che i politici italiani usino appunto le nuove tecnologie unicamente per finire sui media di tipo tradizionale. Ci sono delle felici eccezioni, ad esempio abbiamo incrociato, ma perché alcuni di noi lo conoscono, il presidente della provincia di Firenze, che però è molto giovane perché è 75, quando fu eletto non era neanche trentenne, che effettivamente invece fa un uso della rete molto simile, se vogliamo, a quello che hanno fatto i politici americani durante le ultime elezioni americane. Però si vede che dietro il suo sito, dietro il suo blog, dietro tutto quello che è rete, c'è un grandissimo lavoro. Cioè, sì, non dimentichiamo che Obama aveva impegnato una parte cospicua della sua forza attiva al lavoro in rete. Creato da Obama è stato proprio quello delle persone che l'avrebbero aiutato con le nuove tecnologie, e peraltro Facebook ha avuto successo qui da noi, insomma, in realtà Obama era presente su tutti i social network americani un po' famosi, cioè quello dedicato ai latinos, quello dedicato ai neri, quello dedicato a tutte le minoranze, ed era attivo su ognuno di questi network, non solamente su Facebook. Da noi poi appunto è arrivato solamente il messaggio che Obama ha vinto grazie a Facebook, era famoso su Facebook dove ha 4 milioni e passa di fans, ma in realtà lui era molto attivo su tutti i network, anche forse soprattutto delle minoranze, che a noi osservatori italiani sfuggono. Ecco, quindi insomma, dicevo appunto, il presidente della provincia di Firenze, che si chiama Matteo Renzi, per adesso è l'unico politico che noi abbiamo incrociato che effettivamente fa un uso molto, molto proprio di queste nuove tecnologie, mostrando però che dietro c'è un lavoro grande. Quindi ci perde sicuramente tempo. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Allora, vediamo il suo parere, visto che finalmente qualcuno del pubblico si fa sentire, sembra un problema che non tocchi molto il fatto che ci sia necessità di far comunicare poi chi rappresenta comunque lo Stato, la cosa pubblica, l'economia, il potere, chiamatelo come volete, e chi ogni giorno si muove come se fosse un gioco attraverso questi mezzi di interazione fra umani. Carlo, dica la sua. Ma anch'io ho la sensazione che ci sia un po' di distanza tra la politica e questi nuovi mezzi di comunicazione, forse per via di un equivoco di fondo, che tutto sommato i politici imparano ad usare internet, Facebook, Second Life, mettiamoci tutta una serie di elementi come mezzo di comunicazione, punto, nel quale cercano il consenso, come legittimo che sia. Credo che invece il futuro, forse il presidente della provincia di Firenze può essere un anticipatore, sia quello in cui un ragazzo che ha costruito il suo essere sociale su Facebook a un certo punto entra in politica e usa Facebook quindi come suo strumento prolungamento dei sensi. Allora lì sarà il vero utilizzo. Vediamo se questa sua ipotesi può trovare conforto in qualcuno che ha studiato profondamente la rete, tutte le sue implicazioni. Davide Casaleggio, buongiorno. Buongiorno. Davide Casaleggio, ricordo, partner della Casaleggio Associati, autore di Tu sei la rete, la rivoluzione nel business, nel marketing, nella politica, attraverso le reti sociali, edizioni sempre Casaleggio Associati. Io ho guardato il suo libro Casaleggio e mi rendo conto che esiste una complessità di analisi del fenomeno delle reti che va oltre il semplice numerello tanta gente mi ha visto su YouTube. Forse bisognerebbe cominciassero un pochino a studiare anche l'aspetto teorico, prima di pensare quale cravatta mettersi per farsi il filmatino. Sì, io ho ascoltato gli interventi precedenti e la cosa che ho notato è che l'utilizzo della rete è spesso visto come un utilizzo di un nuovo strumento, di un nuovo Facebook, di un nuovo Second Life, eccetera. Invece deve essere visto come un cambiamento culturale. Obama ha investito molto sulla rete. Il suo staff era 10 volte tanto quello di McCain per la rete. Il vero successo di Obama è stato nella raccolta di finanziamenti dalla rete, no? In cui oltre 3 milioni di donatori online hanno fatto una donazione, più di una donazione sotto i $200. Ecco, visto che questo è anche un po' anche il suo lavoro, lei ha percezione che in Italia si stiano articolando diversamente i budget della politica dedicati naturalmente alla comunicazione, al rapporto con gli esseri umani fatti in carne ed ossa, verso questa idea che bisogna investire più nella comunicazione attraverso la rete? È sempre l'ultimo degli stagisti, l'ultimo dei borsisti, le frange più meno efficaci dello staff che poi si occupano del sito o del profilo Facebook, con termini anche molto sommari. Io sto notando un forte investimento sulla rete da parte dei movimenti politici in Italia, però è sempre limitato all'utilizzo di uno strumento, alla creazione di uno strumento, ma mai una partecipazione del politico sulla rete. Cioè vogliono l'ultimo giochetto per esserci anche loro. Questo in questi giorni ha deciso che tutte le leggi non urgenti le erano messe sulla rete, sul sito della Casa Bianca, e sarà possibile commentarle per 5 giorni prima della firma del presidente. Questo è un cambiamento culturale, non costa niente, ma è un cambiamento incredibile per quanto riguarda la politica. Quindi non è una questione di investimento, è una questione di cambiamento culturale del politico. Prima il professor Rossetti ha citato l'episodio di Petro su Second Life, che in realtà fece parlare molto, ma in realtà lo strumento in sé poi non si prestava molto a essere una grande interfaccia svelta con il pubblico. Però non posso fare a meno di dire, anche so che lei non parla volentieri dei suoi clienti, che sia di Pietro che Beppe Grillo sono clienti in qualche maniera o in qualche maniera voi curate la loro visibilità nel web. Ecco, sono due esempi molto, molto diversi e molto antitetici. Sembra quasi strano che dietro ci sia un unico cervello. Come differenziate queste due diverse strategie di uso della rete? Io prima citavate Second Life, ma ci sono anche molti altri esempi, e ne cito uno perché è stato ripreso adesso anche da Obama, il fatto di comunicare direttamente con i cittadini tramite YouTube per quanto riguarda le decisioni prese nel Consiglio dei Ministri, un'attività che è stata iniziata nel gennaio del 2007, ad esempio da Di Pietro, in cui ogni settimana faceva il resoconto ai cittadini che potevano replicare. E un altro esempio su Grillo, dato che mi chiede. Sì, però nei momenti diciamo più critici. Fondi per bambino che doveva andare negli Stati Uniti a farsi curare, è stata fatta dagli utenti di Grillo che mettevano 5 euro, 2 euro e sono stati raccolti mezzo milione di euro per poter far andare questo bambino a curarsi negli Stati Uniti. Quindi anche in Italia ci sono degli esempi di efficacia della rete. Ho l'impressione che quello che viene chiamato il core business nell'economia della politica non ci si giochi proprio nella rete, sono diciamo delle piccole killer application per mantenere vivace soprattutto giovanile l'immagine. Ancora non c'è l'idea che lì forse è il vero investimento del futuro, o mi sbaglio? È una mia idea. Secondo me la rete in Italia non è ancora stata capita. Siamo allo stadio in cui come negli anni 50, anni 60, era arrivata la televisione e cosa si faceva in televisione? Si metteva al concerto che si ascoltava prima sulla radio e quindi in televisione si potevano guardare gli orchestranti che suonavano. Era ovviamente un utilizzo della televisione pensato da chi conosceva la radio. Il confronto di Obama con McCain è stato anche confrontato in questo senso con il confronto che c'era stato con Nixon e Kennedy, in cui Kennedy aveva capito la televisione, Nixon aveva capito la radio e non sapeva usare la televisione. Secondo me siamo a questo stadio. Sì, c'è anche il Negro Ponte che come sempre lancia le sue profezie epocali, disse appunto questa cosa qui, che come Kennedy aveva avuto la televisione dalla parte sua per vincere, ha avuto Obama, ha avuto internet. Però vedo che non riusciamo mai a uscire da questo nostro desiderio profondo di celebrare, di sottolineare, di raccontare il fenomeno americano, ma dopo le informazioni sul traffico cercheremo, se possibile, di dare l'ultima e spietata lettura di quello che accade in Italia. 800 24 00 24, stiamo parlando di politica e web 2.0, che è una semplificazione che riassume in sé la parte della rete più dedicata all'interazione. Mi scrive Emanuele, dice: personalmente non ho l'impressione che l'intenzione reale alla base delle varie operazioni sia quella di costruire un dialogo, quanto piuttosto di mostrare le buone intenzioni riguardo al costruire un dialogo. Questo è l'atteggiamento generalizzato alla politica italiana. Manfredo, buongiorno. Ciao, buongiorno Gianluca. Velocemente, qual è il tuo punto di vista? Ma io credo che i politici italiani utilizzino pochissimo internet e i media. Porca loca, sì. Sto lavorando, ho combinato un casino. Sì. E credo i politici non utilizzino questi media perché hanno paura dei media verticali, orizzontali, scusami. Sì. Cioè, a parte ovvie ragioni anagrafiche per cui i nostri sono tutti abbastanza vecchiarelli, diciamo, per cui la conoscenza di questi mezzi. Quindi un problema anagrafico, secondo lei? Anagrafico? No, per favore, dammi di tu, vai. Sì. Te lo do io a te. Va bene, sì, sì. No, non è tanto l'anagrafico, cioè è l'anagrafico, ma è anche un'altra cosa. Cioè, questi politici sono abituati alle domande di rito, magari anche studiate prima dai vari Vespa, dai vari Marzullo, eccetera. La paura di una domanda orizzontale, cioè di una persona che ti fa una domanda a bruciapelo alla quale non sono abituati. Quindi difficoltà nel gestire un rapporto diretto, come richiede appunto le modalità del web 2.0, della rete nella sua espressione più di netto, di comunicazione diretta. Grazie. Abbiamo adesso al telefono Carlo Formenti. Carlo Formenti, buongiorno. Buongiorno. Docente di teoria e tecnica dei nuovi media all'Università del Salento, autore di Cyber Soviet, Raffaello Cortina Editore, un libro in cui in realtà Formenti, dopo aver scritto altri libri sulla rete, sull'immersione nella rete, sull'entusiasmo per la rete, poni alcuni punti critici rispetto a questa idea che la rete sia il ricettacolo della grande democrazia, della grande interattività. Ecco, sul problema specifico di cui stiamo parlando questa mattina, secondo lei, o secondo te, non mi ricordo, ce l'avamo del tu, del lei. No, dammi del tu. Ecco, secondo te è un problema proprio fisiologico, genetico, culturale del nostro paese, questa difficoltà a togliersi la grisaglia ed entrare in questo mondo di contatto? Prima domanda. Seconda domanda, così risponde tutto assieme. Le punte più avanzate della cyberdemocrazia conclamata, Grillo per primo, in realtà dimostrano che può essere un'alternativa, è semplicemente uno degli effetti spettacolari della rete, che poi in realtà non cambiano assolutamente nulla nel rapporto concreto fra potere e consenso. Ma dunque, un aspetto specifico, cioè un limite specifico della nostra situazione nazionale, culturale o addirittura, se vogliamo chiamarlo, antropologico, è chiaro, cioè tutti i dati ci dicono che dal punto di vista dei numeri l'uso della rete in Italia è molto arretrato rispetto a quello degli altri paesi occidentali, primo. Secondo, non è solo una questione di numeri, ma è proprio una questione di composizione sociale, oserei dire, con un termine che non è più molto di moda, composizione di classe, cioè quella che viene variamente definita classe creativa, lavoratori della conoscenza, eccetera, eccetera. Nelle analisi sociologiche degli ultimi decenni in Italia ha un peso numerico e politico che è più o meno la metà di quello degli altri paesi europei, ancor meno rispetto agli Stati Uniti, quindi c'è un dato oggettivo. Poi esiste la cultura della nostra classe politica che, al di là di alcune eccezioni che venivano accettate in precedenza, ha ancora un atteggiamento assolutamente strumentale nei confronti dei nuovi media. Penso, come diceva l'ascoltatrice, ci vanno solo per far vedere che loro sono aperti a questo mezzo. Esattamente, cioè devono far vedere che sono aperti a queste nuove modalità di comunicazione, di partecipazione, eccetera, eccetera, però da un lato non le padroneggiano, dall'altro non hanno nessun effettivo interesse ad affrontare la sfida che viene da un'interazione diretta con il loro pubblico di riferimento, diciamo. Ma invece tutto il fermento che accade in rete, l'incontrarsi, seguiamo molto a vicino noi. Cosa, sì, che ha a che fare relativamente poco in realtà con la dimensione della partecipazione politica, perlomeno nei termini delle categorie tradizionali della democrazia rappresentativa, ma in fondo anche della stessa democrazia diretta. Quindi c'è un aspetto illusorio, fantasmatico, pensano di fare opinione ma in realtà non fanno nulla. Sì, c'è un conflitto di fondo fra l'idea di democrazia con tutti i suoi limiti, le sue contraddizioni, le sue tensioni, che si sviluppa all'interno delle pratiche, delle comunità virtuali in rete, dei social network, eccetera, eccetera, e la realtà delle istituzioni democratiche. Ma questo non riguarda solo l'Italia, riguarda anche il punto più avanzato. Obama, adesso che è riuscito a utilizzare, diciamo, i canali della rete nel modo migliore, prima soprattutto per vincere la battaglia per la nomination con la Clinton, e poi molto più facilmente da un certo punto di vista su questo terreno, quella con McCain, oggi si troverà in difficoltà perché in realtà l'aspettativa dei cittadini che militano e si mobilitano attraverso la rete, che continuiamo a dirlo sono una minoranza, la maggior parte delle persone utilizza le tecnologie del web 2.0 in modo che non ha nulla a che fare. Sì, è un santino con degli uffici stampa che attaccano i comunicati, l'abbiamo visto. Una nuova forma di consumismo di massa, di nuovo tipo. Però al di là di quello, l'aspettativa invece di chi è in rete per partecipare, è di partecipare davvero, cioè di far pesare le proprie opinioni sulle decisioni. Ora invece, anche al punto più avanzato, le dinamiche del sistema politico sono casomai di trasparenza, di modernizzazione della comunicazione, sì, di attivazione di nuovi canali per il consenso, ma le istituzioni sono fatte in modo tale per cui non possono, letteralmente non possono. Ma è anche giusto che sia così, se no non ci sarebbe un meccanismo di rappresentanza attraverso un sistema democratico che elegge le persone. Se poi ci fosse anche questa possibilità di sfumata che decide chi sta in rete, dovremmo smontare questo. Qui sarebbe, a meno di, e qui è un ragionamento complicato che ci porta su un altro terreno, che è quello che fa Stefano Rodotà a partire dalla tecnopolitica, ma anche tutte le cose che ha scritto successivamente, di ragionare su profonde riforme, qui forse andrebbe usata più la parola rivoluzione che riforma, che portino a quella che lui definisce una forma di democrazia continua, cioè una versione virtuale allargata degli esperimenti che vengono fatti per esempio in Brasile, a Porto Alegre da qualche anno, cioè di democrazia partecipativa, in cui si trovano delle mediazioni fra i meccanismi di formazione delle decisioni istituzionali che in ultima istanza alla fine devono necessariamente essere autonomi dalle oscillazioni giorno su giorno dell'opinione pubblica, e però un contributo concreto, reale, non puramente simbolico dei cittadini alla formazione del processo. Ecco, Andrea Rossetti, proprio in conclusione, l'ultimo minuto. Le persone che si stanno con attenzione rivolgendo a università, istituti di ricerca per dire dateci gli strumenti per fare come Obama, si rendono conto che arriveranno a questo red rationem, che alla fine le persone chiederanno, beh, vogliamo contare anche noi nell'iter di una legge, di una decisione, e questo è impossibile? No, loro secondo me dicono di volerlo, ma non si rendono davvero conto di quello che stanno chiedendo. La mia impressione è questa, insomma, e anche i loro stessi consiglieri a volte non si rendono conto, appunto, come diceva giustamente Carlo, la funzione di questi strumenti è unicamente quella di apparire, no? Di apparire in rete, di essere alla pace in qualche maniera. No, non sono i nostri politici, ma credo la classe politica in generale, come stava giustamente dicendo prima, non è strutturalmente preparata a questo cambiamento che dovrebbe essere strutturale, radicale, insomma, del modo di fare politica in Occidente. Quindi mi sembra, come conclusione, visto che vi piacciono gli aforismi, in questo momento la mia impressione, ma suscettibile di ogni critica, è che la classe politica sul modello Obama si rivolge a un Sarto, dice fammi un bel vestitino nuovo che sia la moda, ma in realtà non ha nessuna voglia, nessuna intenzione, nessuno strumento tecnico e nessuna teorica capacità di mettersi veramente in gioco in un sistema che ancora probabilmente non è così pronto per essere veramente decisivo anche nelle decisioni importanti. A lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.